essere. Allora, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo incontro a cui ci teniamo molto perché è dedicato a Franco Trincale, che è stato protagonista per tanti anni di quella che è la piazza milanese. È un incontro più che una vera e propria presentazione, è un momento di ripresa dopo un anno e più che non ci si vede tra di noi, è proprio il ritrovarci, quindi è una cosa proprio considerato un incontro amichevole, se poi qualcuno vuol dire qualcosa, vuole intervenire. E l'occasione appunto è questo libro che è nato l'anno scorso, quindi durante la pandemia, che è stato curato da Mauro Geraci e che verrà, che ne parlerà lui in modo più approfondito, insieme a Ivan Manupelli, che è seduto tra di voi, che è colui che ha curato la parte grafica, la copertina, i disegni, e che è un amico di Trincale da diversi anni. Io lo ricordo nel 2005 a un corso per il mestiere di cantastoria, l'Arcibellezza, e aveva dipinto un cartellone proprio per l'occasione. Credo che chi è qui conosce Franco Trincale, sa chi è, però visto che siamo anche in streaming è giusto dire due parole, ci vorrebbe una giornata più che due parole, però su Franco Trincale, nato a Catania qualche anno fa, è venuto poi negli anni 60 a Milano, a contatto con gli operai, con i lavoratori dell'Alfa Romeo, cioè praticamente lui andava a cantare durante i cambi turno e si è accorto che le problematiche che ha vissuto lui erano le stesse di questi lavoratori e ha cominciato a cantare delle canzoni che parlavano di immigrazione, che parlavano di affitto, di difficoltà per i meridionali a trovare le case e tutta una serie di problemi. Poi piano piano Franco, tra l'altro, è stato protagonista nel 70 di un arresto praticamente sul palco, è stato portato via alla Favorita di Palermo mentre cantava l'orologio del dottor Guida e lamento per la morte di Giuseppe Pinelli e canzoni contro la guerra nel Vietnam, hanno spento l'audio e è stato accompagnato all'uscita, come si suol dire, per cui è stato in una situazione che era considerata una sorta di Woodstock italiana, c'erano presenti diversi artisti di fama mondiale. Poi appunto Franco è venuto a Milano, è entrato in contatto con una realtà che appunto era quella degli immigrati, però non si è fermato a quello. Cioè, io credo che non ci sia un fatto di cronaca degli ultimi 50 anni che Franco non abbia cantato, non abbia raccontato, a partire da proprio ad esempio dall'occupazione di Via Tibaldi, un fatto che ebbe un riscontro nazionale proprio per la morte di questo bambino, proprio perché c'era un movimento di occupazione delle case importanti. Franco andò a cantare per gli occupanti e poi scrisse una canzone che penso che sentirete stasera, magari non la canta lui, però è un ricordo, visto che sono giusto 50 anni che c'è stata l'occupazione, era il 6 giugno del 1971. Ma poi Franco è stato presente praticamente sempre alle manifestazioni, a tutto quello che era il movimento in quegli anni. Mi ricordo, facendo un salto di una trentina d'anni, nel 2001, quando è morto Carlo Giuliani, tu eri a cantare e siccome ci furono dei comizi improvvisati, il suo amplificatore venne utilizzato per fare dei comizi e parlare di quello che stava succedendo a Genova. Ma poi ancora per Mani Pulite, voglio ricordare che per esempio gli avvocati di Berlusconi posero una delle condizioni per spostare il processo da Milano ad altra sede, il fatto che c'era una persona che ogni settimana in Piazza Duomo o in Corso Vittorio Emanuele raccontava e cantava contro Berlusconi e contro quello che era Mani Pulite. Ma poi ancora la guerra in Kosovo, cioè veramente è infinito il repertorio di Franco, non c'è una. Mi ricordo ad esempio i morti al Galeazzi per la camera iperbarica e Franco era sul sagrato durante i funerali a cantare di questo fatto, quindi fino ai giorni nostri, perché è vero che Franco è un po' di tempo che ha lasciato le piazze, ha lasciato l'attività, diciamo, il contatto diretto con il pubblico, però sul suo sito potete trovare ancora sui componimenti, sulla pandemia, su quello che è successo in questi ultimi anni. Quindi è veramente un piacere che sia ritornato così a incontrarci. Prima, durante le prove, lo sentirete, ha una voce ancora spettacolare. E ripeto, è un momento così di riprese, di incontro, e vogliamo che rimanga così in amicizia. Per cui io darei la parola adesso a Mauro Geraci, che posso dire sei l'erede comunque di Franco Tenenbaum. Lui lo racconta che appunto l'ha incontrato, l'ha visto per la prima volta quando aveva 8 anni allo stadio della Favorita, e gli ha cambiato la vita, fa anche rima, guarda, ho trovato anche una rima. Ecco, poi chiedo magari se ha voglia di dire due parole Ivan sulla gestazione, la nascita di questo libro, anche dal punto di vista grafico, e il rapporto che ha con Franco. Poi diamo lo spazio a Franco e poi ci sarà in chiusura un paio di interventi musicali, sia di Tiziana, che anche lei è sulle orme di Franco, anche se sta arrivando a lei, però diciamo... Lei ha il certificato. Proprio è laureata in cantastorie, perché ha seguito il corso di laboratorio fatto da Franco con attestato, quindi lei è veramente quella che ha più titolo. Esatto, e poi dopo niente, chiudiamo, però vogliamo lasciare spazio appunto a Franco a raccontare quello che si sente, quello che ha voglia di comunicarci. Adesso passo la parola invece a Mauro. Grazie a tutti, grazie a Calux, a Calusca, per questa bellissima, che non è una presentazione, è un abbraccio dopo tanti anni, perché sono anni, cioè, sembrano secoli, in cui uno non si poteva neanche vedere in faccia. Finalmente uno ha la possibilità di riuscire, grazie a Calusca, a questo spazio all'aperto, qua c'è la possibilità di riabbracciarci e di cantare assieme, perché quando i cantastorie cantano, non cantano i cantastorie, quando i cantastorie cantano, cantano quello che osservano, quello che danno voce ai disoccupati, danno voce agli emigranti, come ha fatto tantissimo Franco, e danno voce alle proteste popolari. Tu dicevi il Festival Pop 70, che resta veramente un esempio: c'erano i Beatles, c'erano i Rolling Stones, c'erano le Zeppelin, c'era Rosa Balistreri, c'erano i ricchi e poveri, c'era quando lui lo mandano fuori dal palco, perché cantava oltre alle ballate legate al fatto di Pinelli, cantava Nixon Boyan, perché erano gli anni dell'occupazione del Vietnam e della Cambogia, ed è per quella canzone Nixon Boyan che lui è stato cacciato fuori dal palco. Ma 80.000 studenti, 80.000 manifestanti lo richiamavano sul palco, e gli organizzatori furono costretti alle 11:30 di sera a farlo risalire sul palco. Chi c'era alle 11:30 che doveva suonare con 250 orchestrali? Duke Ellington, il re del jazz, diciamo così, contemporaneo, che lo abbraccia. È stato concordato l'abbraccio. Concordato l'abbraccio. Mentre 80.000 persone cantavano Nixon Boia, via le mani dall'Indocina, via le mani dall'Indocina. È stata una cosa che mio padre mi teneva per mano, io avevo 8 anni. Dice: tu questo giorno te lo devi ricordare. Mio padre faceva il giornalista musicale e quindi faceva le recensioni. Te lo devi ricordare per tutta la vita. E infatti me lo sono ricordato, e l'ho ricordato anche nella introduzione di questo libro, che ho avuto veramente l'onore, il piacere, cioè l'emozione di curare, dopo anni e anni di raccolta di queste poesie, di raccolta di questi disegni. E lo spirito di questo libro sta nel titolo, che, se ci pensate bene, è quanto di più contraddittorio ci possa essere. Penso, chiudo gli occhi e scrivo. Penso, chiude gli occhi, e uno si mette a scrivere quando chiude gli occhi, ma come fa a scrivere se c'ha gli occhi chiusi? Poi uno ripensa a Omero, che era cieco. Poi uno pensa al bambino che vedete qui raffigurato a pagina numero 17, che è il bambino che ogni anno deve subire un'operazione al cervello, che sta in Piemonte, che ha scoperto Trincare tramite internet, che gli ha regalato dei cartoncini in cui lui ha disegnato questi disegni, e capisce come chiudere gli occhi non è chiudere gli occhi, chiudere gli occhi è aprirli ancora di più, cioè cercare di vedere quello che non si vede, cercare di vedere addirittura certe volte anche il futuro. Spesso i cantastorie avevano anche, venivano considerate come in Sicilia, che avevano anche delle potenzialità divinatorie, di preveggenza del futuro, tanto conoscevano bene il passato quanto si pensava potessero conoscere pure il futuro. Il fratello e il padre del cantastorie Ciccio Busacca faceva l'astrologo, l'astrologo e il mago, e tra l'altro anche il papà di Franco aveva qualche... Sta telefonando a Ale. Benissimo. Quindi, quando questo non è un libro, è un libro di Franco Trincale, ma io lo considero un libro nostro. È un libro di Claudio e Tiziano, è un libro mio, è un libro di Ivan, è un libro di Alessandro, ma è anche un libro, come lo dice anche bene Franco nella sua introduzione, intitolata proprio su quel treno di noi cantastore, di tutti quelli che ancora vogliono mantenere il pensiero critico. Critico non significa che uno deve criticare per forza, critico significa il pensiero speculativo, cioè cercare di riflettere sulle cose che ci stanno attorno. E i cantastori questo sempre hanno fatto, hanno raccolto le informazioni, le trasformano in poesia, le trasformano in musica, le trasformano in grafica, in immagine, e poi la vanno a ricantare negli stessi posti da dove hanno raccolto le informazioni, in modo tale che le persone si possano guardare allo specchio. È una poesia riflessiva che si collega anche al grande realismo letterario meridionale, che in Milano trova una delle sue più straordinarie capitali. A Milano viveva Quasimodo, a Milano viveva Vincenzo Consolo, per non parlare di Giovanni Verga, che era un verista e che appunto guardava, come diceva lui, le cose da una certa distanza. I cantastorie guardano le cose da una certa distanza. Una volta diceva Franco, dice: io me ne vado nelle fabbriche occupate, me ne vado in mezzo agli emigranti, me ne vado dove c'era la Sit Siemens, l'Alfa Romeo, raccolgo le informazioni dei lavoratori, dopodiché vado a casa, compongo delle ballate e gliele vado a cantare ai turni di mensa, cioè alle 12, quando loro staccavano delle catene di montaggio e praticamente mangiavano un panino, affinché quelle fasce operaie, gli operai, acquisissero consapevolezza critica di quello che stavano vivendo, della classe che non si trovava, della società diciamo terribile in qualche modo, cioè che, in cui erano costretti a vivere. Quindi è un libro nuovo, ma un libro anche antico, raccoglie testi diciamo così un pochino più antichi, degli anni 70, degli anni 80, e testi viceversa attualissimi. Alcuni io li ho visti addirittura nascere. Mi ricordo quando lui è venuto a Roma a cantare all'università, è successo un fatto veramente sconcertante. Sull'altare della patria, uno dei due piantoni che devono rimanere sempre fissi, si spara un colpo di fucile, si suicida sull'altare della patria. Compriamo i giornali e non ne parlava nessuno. Questa è una cosa simbolica, un soldato che si suicida sul monumento al milite ignoto. C'è chi parlava di nonnismo, chi parlava che la ragione poteva essere una ragione legata a una delusione amorosa, allo stress psicofisico che questo ragazzo in qualche modo viveva. Sta di fatto che i giornali non ne parlavano, se non in trafiletti così, una cosa che sensazionale, un soldato che si suicida a Piazza Venezia nel monumento al milite ignoto. E invece i giornali titolavano a 9 colonne il fatto che era morto Craxi in Tunisia, dove tu avevi scritto già il ritorno di Don Bettino tunisino, cioè torna, l'Italia aspetta te, torna, quasi smania per te vedè, torna, casi non torni tu, ca non si ruba più. Questa era la... E c'aveva il cartellone, il cartellone che ora si trova nel fondo di Militello, il cartellone con Don Bettino che ritornava per 9 colonne su Bettino Craxi e su Carlo non mi ricordo come si chiamava, c'è scritto qua nel libro, non mi ricordo, mi sfugge il nome, un trafiletto così. Ci siamo seduti, ti ricordi? Abbiamo scritto questo Craxi il marinaio, ma dove vanno i marinai su quel mare consacrato dove ieri uno di loro col fucile si è sparato, marinaio sognatore che sognavi navigare, ora fai la guardia d'ore sull'altare, bellissima, bellissima ballata che poi lui ha cantato, anche se hanno provato a censurargliela e a tagliargli delle strofe su Rai International, ti ricordi quando siamo andati a Firenze. Quindi è un libro che racconta la storia nostra contemporanea, racconta la storia di Franco, di chi gli è stato e gli sta ancora attorno, ma soprattutto racconta una storia futura, la storia futura di chi vuole, come dice lui, salire ancora su quel treno dei cantastorie. E Ivan, e gli amici di Ivan, e voi tutti, e Tiziana, Claudio, io, siamo saliti e speriamo che altre persone salgano su questo treno dei cantastorie proprio per guardare con occhi riflessivi, con occhi critici, ma nel senso proprio costruttivo, la vita sociale, che invece pensiero critico, cioè che invece oggi moltissimi tentano di fare sparire, di tagliare, di stroncare completamente. Quindi si potrebbero dire tantissime altre cose su queste poesie, moltissime cose le dirà Franco, casomai poi se volete fare delle domande, delle curiosità, noi ma intanto questa mi sembra la chiave di lettura con cui è nato questo libro, che ha assemblato i disegni di Franco sui suoi, lui disegna i suoi sogni, l'idea del malessere, disegna la morte addirittura in certi suoi dipinti, disegna se stesso in piazza, e quindi è una specie di libro autoriflessivo sulla condizione di cantastore, sulla difficoltà che per lui ha comportato fare questo lavoro non solo a Milano ma in tutto il mondo. Io recentemente ho fatto un saggio in cui ho studiato le lettere che gli hanno mandato gli emigranti negli anni 60 e 70 dalla Germania, dalla Svizzera, e che pensate, lettere, famiglie di emigranti che dopo l'uscita di questo libro, che lui ha contattato anche per email, hanno cominciato a scrivere per email, quindi è un dialogo ininterrotto dagli anni 70 a oggi. Insomma, ci sono molte storie che si intrecciano, di storie di vita, ci sono molti piaceri e molti dolori in questo libro, che va letto proprio così, prendendo le distanze ma anche identificandosi dalle storie che sono narrate appunto attraverso la poesia e la musica e il disegno. E a questo punto io vorrei, c'è qua il carissimo Ivan che ha fatto questa stupenda copertina che è proprio rispecchia anche il modo proprio conoscitivo, perché lui ha disegnato Franco Trincale che ha alle sue spalle un cartellone diviso a scene come quelle che usiamo noi cantastorie del sud, cantastorie siciliani, in cui ad essere raffigurati scena per scena sono le fasi, le immagini, le cose che lui ha vissuto e che lui ha cantato. Quindi è il cantastore che guarda se stesso. È un libro che assomiglia a una specie di stanza degli specchi, dove ognuno di noi entra, si guarda allo specchio, certe volte si riconosce, altre volte non si riconosce, e lotta per migliorare questo mondo. C'è Ignazio Buttitta, che è uno dei più grandi padri dei cantastori, c'è Ciccio Busacca, altro grandissimo cantastore, c'è la morte, che la morte diciamo è un tema molto caro a noi meridionali e che è molto presente in questo libro, ma c'è anche Ufi Cudinnia, c'è anche Ucannolu nella pasticceria di via Solari, che è una poesia stupenda, non so se la vuole leggere, se no la leggo io. Cioè è una, la posso leggere, sì, un secondo, io la trovo forse una delle più belle. Ma io penso, e finisco con questo, posso dire una parola, sì. Veramente questo senso che mi è venuto di questo treno, che ci siamo incontrati in una situazione nella vita che io lascio, ma che praticamente de generazione in generazione, cioè si incontrano lui bravissimo, lui, lo state vedendo, professore di cattedra eccetera eccetera, io quello che rimane, però non posso essere e rimane e rimarrà per l'eternità, sono qua a fare presente, cioè veramente c'è stato un momento magico della vita che fa incontrare queste persone che sono la storia vera. portata lì e poi ho fatto un libro durante tutto questo meccanismo di guerra batterica, perché io definisco che questi siamo in guerra, ma non in guerra come vogliono far capire loro, siamo in guerra voluta economica, perché hanno toccato la Cina e la Cina vuole rimanere quella, facendo il compromesso con il signore Larch Monopoli, nel mentre stanno discutendo di che il primo ricco parte per la luna già, no? Certo. Adesso quest'ora ci facevo la ballata, ma c'è l'energia. Vabbè. Siamo incontrati. Ma ora passiamo a Ucannolo, che è più importante. Ucannolo a Milano. Io lo leggo in dialetto siciliano, qualche parolina non si capisce, l'ho messa qui in nota, ma comunque si capisce lo stesso. Alleggio, piano piano, sì. Alleggio, te vai o stuzzicanno cudducizza, picchiducizza e chi da cameduni quando ti piglio a muzzicone. Benedetto a queca ti creau, ci misu cori e lamenti di due misteri antico e intelligenti. Ti fece croccante la scorza tunna ammugliata, le labbra a friscaletto, d'unni falloco tenendo l'ammucciata, la ricuttedda bianca e insuccarata. Ora, carredutti semu, senza valori e né sapori, ringrazio a cui ti fici e ancora a cui ti fa, d'unni posso accattare un pezzo di felicità. Tu a resistissi sempre lo stesso, di padre in figlio, semplice e naturale, e ca, un insaccammo, colleri e veleni, trovo lume con orto, ca, a Milano, quando ha saputo a tia, Cannolo siciliano. È bellissima, perché proprio il Cannolo che ridà la felicità, proprio si traspare la felicità del dramma, che uno dice vabbè, cioè, mi vado a mangiare il Cannolo, che invece diventa motivo di... Vabbè, Franco, ora... Ivan. Fanno parlare mai. Dopo Ivan poi faccio io. Va bene. No, sarò brevissimo, sennò poi Franco non parla più. E, no, nel senso, beh, io nel preparare questo libro sono rimasto molto colpito dai disegni. Conoscevo già Franco come cantastorie e ci conosciamo da tantissimi anni. Io mi ricordo, insomma, ho conosciuto che frequentavo il liceo e volevo per la mia fanzine una rubrica particolare che poi è diventata l'angolo del cantastorie. Tra l'altro c'erano gli anni incredibili in cui Franco era in guerra con Albertini e quindi insomma per me questa cosa aveva proprio un sapore mitologico, cioè il cantastorie proibito, quello insomma censurato da Berlusconi, il pericolo delle piazze. E allora sono rimasto molto colpito da questa cosa. Io l'ho contattato per telefono, credo, sì, non ci eravamo ancora visti di persona, per un'intervista, ma già dalla volta dopo già collaborava sulla mia fanzina, aveva già la sua rubrica e io ero molto felice di questa cosa e sono contentissimo. E nel tempo insomma abbiamo collaborato un po' di volte anche per dei cartelloni, ho avuto l'onore di disegnargliene un paio, e però io sono sempre rimasto colpito da Franco anche come disegnatore. Infatti questo libro è la conferma, perché è una raccolta di suoi disegni inediti e fare il disegnatore di cartelloni per le ballate, accompagnare con delle immagini le ballate, qualcosa di, cioè, che è proprio la quintessenza del fumetto, cioè tu in pochissime immagini devi saper catturare l'attenzione, raccontare una storia, e c'è una capacità di sintesi incredibile. E quindi niente, questo volevo riportare, questa testimonianza. Abbiamo poi avuto modo, a parte che ci siamo sempre sentiti nel tempo, ma di riallacciare rapporti anche nel periodo apocalittico del Covid. Io sono rimasto veramente affascinato dal fatto che in un periodo di distopia fantascientifica ci fossero le ballate di Franco sul Covid. Quando ho fatto la ballata La Cina è vicina, ho avuto i brividi davvero. Era un periodo assurdo dove era tutto fermo, eppure c'era questa voce del Novecento che ha saputo raccontare benissimo il Novecento, e ha saputo raccontare benissimo anche una distopia da insomma fantascientifica. E quindi insomma questa è stata l'ennesima conferma, insomma, come, ma non c'era bisogno di avere delle conferme, nel senso, sull'arte di Franco. E niente, questo. Ok, grazie. Tra l'altro Ivan sta facendo alcuni disegni volanti, c'è qui il suo taquino in cui ci pochissimi sta documentando con dei disegni questo incontro tra di noi. Io a questo punto direi che Franco può, hai lo spazio per dire, ma si sente quando parlo, non so se, forse guarda, possiamo fare una cosa, leviamo il microfono da qua, io lo no, lascio, vengo lì per la cosa, per quando canto oppure te lo passo, no, perché è difficile camminare, capisci, ci sono i piedi che... Va bene, grazie, siccome spostarmi fisicamente è un pochettino. Allora, io ho pensato di questi qua, di preferito 4-5, quelle che sono, poesie. Vabbè, come poeta io non sapevo che fossero poesie, io scrivevo queste cose qua e le tenevo lì. Un bel giorno Mauro dice, ma queste sono bellissime, queste sono poesie. E allora adesso sono diventato poeta, non lo so poi questo qua. E allora... Certo, qua ci sono centinaia, se non più, di poesie e di cose qua. Allora io mi faccio qualche cosa. Sto microfono, non so. Basta, mi ci metto qui attaccato, dai. Allora, la prima è consone al titolo che appunto ha scelto Mauro, perché c'è la poesia, però negli in effetti devo andare a pagina 22. Scusatemi, qui prendete quello che c'è ora. Io non mi sono neanche preoccupato di schiodare la chitarra dove era appesa per provare una volta. L'ho fatto prima di venire qui a casa e c'era il pubblico, l'idraulico che stava riparando i rubinetti che perdevano, la badante di mia moglie. Mia moglie e mia figlia, perché è venuta, perché oggi sta più male e sono preoccupatissimo di queste cose qua. Allora, la prima appunto è questa. Penso, chiudo l'occhio e scrivo. Io, come tu leggi le poesie tu, io logicamente io la leggo. Quanto vale una cosa o puoi capire quando una cosa ti viene a mancare, quando aiuti e chiangi per riavere, sapendo che annarrere un po' tornare. La vita è da così, cu va e cu vene, cu nasce in tali gioi e con tali pene. Ora che a mia manca l'uto bene, vaio giangendo in casa e ignuni, e ancora a ditta, chi do che mi teni, solo l'uto ricordo e stu vastuni. Du giorno lo ricordo fu di luni, quando ci siamo d'intra da vicina, entra di cose belle e di coruni, accattamo un bastoneggio e una cartolina e dissimo, cosa da sessantina, pensate un po', sono 86 anni adesso, cosa da sessantina magari ne può servire starnisi, fu da così, ridendo da mattina, che consumammo i sordi di Lumisi. Ora tutte le sordi che consumo su chi di picannile e pelo fumo. Picannile o fumo sono quelle candele che mandano profumo, sapete, ogni tanto uno li mette, si mette... Quanto cannili che lo orna d'umo, pittia le mie pensieri su di prima, mentre fuma l'incenso e lo profumo, dintra la mente mi manna la rima, rima vasata per sta poesia che è puro frutto della fantasia. Lo orno vero invece è regalia, perché io sogno qua e tu con mia, nel senso che pensavo cose, mentre invece poi questo sogno non è, perché svegliandomi tu sei con me, siamo felici e contenti. E l'ho scritta dentro l'autobus numero 50 e la metro per il Duomo a Milano il 27 di luglio del 1999, quindi non so se mi spiego. L'altra, che poi è l'altra, è Grapemi la porta, ed è pagina, segnato le pagine perché pagina la porta, è a pagina 112, andiamo a 112. Ecco. c'è il disegno che poi è Mauro quello che io ho fatto tutti i disegni, perché i miei disegni nascevano in questa maniera: prendevo la penna a biro, puntavo in un cartoncino sempre che puntavo e sviluppavo delle cose. Se mi direte ma le puoi fare un'altra volta, non lo so fare più un'altra volta, quindi non sono né disegnatore né poeta niente, però questa è la carta, e a me paese dice a carta è chi da conta. Oggi siamo nell'epoca della virtualità, però tra la fisicità e la virtualità c'è differenza, e quindi troviamo questa differenza in ogni cosa, in quello che porta la pizza, che è sfruttato dal signore quello lì, Mamazzone, tutte queste cose qua. Allora, questa è dedicata a mia moglie, nello stato attuale in cui è. Scritta sull'aereo. Scritta sull'aereo mentre andavo in Sicilia ad inaugurare la... E qui c'è la fotografata, la carta dell'Alitalia che dà per assorbire cose, io l'ho scritta lì. Grapemi la porta d'autocori, dince lo munnutofa a me giasiri, un l'amore nostro eternamente arresta un stampato dalla tua mente. Dince lo munnuto c'è ducizia, e io lo sento quando m'accarizza la manuzza tocca, vuole dire resta a cadincia, no, non diniri. Sì che resto, dince lo tuo munnu. Ora che tu la porta mi capisti, accarizzami e dammi una manuzza, corre per sempre sì la mia santuzza. Questa è nel coso dell'Alitalia, qui c'è la scritta nell'aereo dell'Alitalia il 12 ottobre 2018, quando da Milano venni a Militello in Val di Catania per l'inaugurazione della mostra permanente organizzata dal Comune. L'altra che ho scelto è a pagina 57, che è Poesia per Lina, questa fatta in italiano per rendere lo stesso concetto però. Ed è il numero 109. Qui c'è un altro disegno. Questo l'ho fatto mentre, non l'abbiamo messo, ma me lo ricordo, l'ho fatto mentre aspettavo. Questa di sotto è la carta. Aspettavo un'analisi che mi dovevo fare a San Carlo. No. 157. Che pagina? Ah, 57, scusami. Grazie, aiutami perché. Ecco, qui c'è l'altro disegno, sì. Poesia per Lina. Aprimi la porta del tuo cuore, nel tuo nuovo mondo fammi entrare, dove il nostro amore eternamente scolpito ti è rimasto in mente. Sento l'oblio della dolcezza quando la mano tua mi accarezza. Sento che mi dici resta, or che ci sei, non te ne andare. Sì che resto, amore, fino in fondo, eternamente. Or che tu la porta mi hai aperta, resto con te. Per vivere il tuo mondo, mano nella mano, la tua mano che accarezza è il mondo tuo di amore e di dolcezza. Ieri mi hanno impiantato nella mia casa due lettini di ospedalizzazione, perché io ho deciso di non portare mai e poi mai mia moglie in ospedale. Quindi faremo il percorso finale in questa casa di via Lorenteggio 141. L'altra è al 109. Mi piace, cose semplici che ho scritto quando non avevo questa situazione e la mia Lina era presente, come non lo può essere ora, 109, sì. Mi piace. Il sole che mi accarezza è quello che mi piace. Il tuo dolce sorriso che mi rasserena è quello che mi piace. La tua mano quando stringe la mia è quello che mi piace. Il tuo bacio tenero e fugace che sfiora le mie labbra quando in dormiveglia ascolto la televisione è quello che mi piace. L'odore del caffè versato nella tazza, sai la tazza quando fa il caffè? L'odore del caffè versato nella tazza mentre bolle e canta in caffettiera è quello che mi piace. La domenica sera, vissuta con te, Lina, a gustare la pizza calda presa al kebab di sotto casa è quello che mi piace. Il mattino, quando alzo la tapparella e vedo affacciarsi il sole è quello che mi piace. Sapere che prima o poi queste cose le dovrò lasciare è quello che non mi piace. Scritta il 30 ottobre del 2015. Poi vi voglio lasciare con una cosa che mi fa sorridere prima che la descrivo, siccome in siciliano, però sono cose che accadono a Milano, in Sicilia, credo in tutto il mondo, dove c'è la macchina, dove l'individuo entra, sa che è un mezzo che è vetrato, che può camminare, però quando si ferma ai semafori c'è un senso di rilasso e comincia a fare delle cose che io ho notato, quella più semplice che l'ho fatta anch'io, cioè dire, si comincia a fare grattare, poi c'è qualcuno che comincia così, comincia come se non c'è nulla, come se non c'è nessuno, poi fa la pallina ping, e si chiama a pallina. Che numero è la pallina? 172. Ah, dimmelo. C'è qua. A pallina, e qui c'è il disegno che io ho fatto pensando di scoccare la pallina. Sogno curioso e troppo un bacideri, ma lo faccio per cultura e allo spisso, un disciate, vedo cose e fatte vere, cadince di lamenti me le fisso. Stufatto, capicanto, e a versi corti, è cosa che può capitare a tutti. Ma lo fanno di più l'altolocati, quando allo semaforo col rosso, l'uni all'auci, le macchine affiancate, li vede fare cose di gran lusso. A volte, e non è certo più caso, tal io guardo a cose polizio naso. Credendo come se io fossi in casa, mentre cadinge la macchina che è miso, la guanta se la leva, e a sua mano vastasa la punta coi tuzzo nicu allo suo viso, poi lo infila a corco di già le narici, scava lo naso e gli è tutto felice. Come se nulla lo tagliasse, come se nulla lo guardasse, tira lo iriteddu a babbaluci e un minuto torna picciriddu, senza farsi tabù, murale e croci, coi tu grosso, iddu poi commina, lo babbaluci come una pallina. È soddisfatto, ora si dispensa, mentre che lo semaforo in partenza scocca l'ita e lancia la pallina, fora intasciata di sua finiscina, che si può posa e resta impiccicata in divizia della macchina affiancata. E scatta l'uirdi e rompono le motori. L'auto ci dice, porco, vastaso, lei ha così distinto e addirittura bombarda l'ome viso con suo naso. Ci dice questo mentre cade a reri, si poliziona sulla vogliere. Si è capita? Allora, grazie. Ora, giustamente, non è che volevo che... Giustamente, non ho portato la chitarra perché, dico, se sono poeta, vengo da poeta. Ma è troppa presunzione questa. Allora io faccio uno sforzo veramente, perché non ricordo a memoria più niente. Lui ricorda a memoria tutte le mie canzoni, quasi. Quindi lui, ma, voglio dire, lo diceste al mio paese quando inauguriamo, che si sente un erede, come se io fossi il suo maestro e lui, ci ho passato la staffetta a lui, in considerazione è vero, perché io riconosco che solo lui, sia per le doti che natura ci ha dato, sia la voce, sia per la musica che ha studiato, eccetera, è l'unico che possa interpretare veramente con l'animo, col cuore e con l'arte il cantastorie come era Trincale. Vi canto solo una ballata, chitarra compagna, non è questa, è quella che è al museo di Militello, la chitarra che mi hanno regalato i lavoratori dell'Alfa Romeo nelle lotte dei metalmeccanici. Quando la mia chitarra era scassata mi sono visto poi portare una volta un regalo, dice caccia la chitarra nuova, e mi hanno regalato una chitarra di Monsino, che era uno dei migliori ebanisti che ci abbiamo avuto a Milano. Quindi fate finta che c'è la chitarra. Prima di lasciarti però, siamo in un luogo molto importante qua a Milano, che è il centro sociale Conchetta, la libreria Calusca. Tu hai conosciuto prima Moroni, puoi dire qualcosa su di lui? Su di lui bisogna che si interessino. Con lui c'era l'amicizia che lui stabiliva con tutti i compagni veri, non i compagni tra virgolette. Compagno, se piove, compagno, compagno, non è bello, tu stai sotto l'ombrello ed io mi bagno, compagno, i pugni in tasca, ma pure si mette, compagno, tu sotto le virgolette, ed ora io sono innamorato cotto, ancora del 1968. scusatemi, non ho preso il bastone, però ho i piedi calcificati e quindi faccio fatica. Chitarra compagna. Quanti capelli grigi caduti sopra questa chitarra invecchiata, quante corde strappate al grido di libertà calpestato, quanto dolore mascherato, quanto impegno consumato. Scagli la prima pietra che non sbaglia contro questa chitarra di battaglia. Chitarra impugnata, chitarra gridata, chitarra abbracciata dal compagno emigrato. Chitarra firmata, chitarra arrestata, chitarra bandiera nel quartiere isolato. Chitarra scolorita, chitarra che continui la lotta per la vita. Quanto denaro inghiottito dai treni e dalle autostrade e non è certo finita. Quanti compagni abbracciati, perduti e ritrovati lungo il cammino della vita. Quante ballate intonate dentro le fabbriche occupate. Chitarra, voce e suono degli operai che me ne fecero dono. Chitarra impugnata, chitarra gridata, chitarra abbracciata dal compagno emigrato. Chitarra filmata, chitarra arrestata, chitarra bandiera nel quartiere isolato. Chitarra scolorita, chitarra che continui la lotta per la vita. Credo che questa sia l'ultima canzone che ho cantato. Occhi per Nico. Non mi ricordo più. Va bene. Non me le ricordo più. Basta così. Allora. Questa è... Te la butto a terra, vieni qua. Franco, ti lasciamo riposare un po', sì, poi... lasciamo spazio ai tuoi eredi, ai tuoi... Chi stai dicendo? Occhi per me. Un attimo di cambio palco. Allora, qui abbiamo messo, cioè praticamente abbiamo preso alcune ballate di Franco, delle varie, dei vari periodi della produzione di Franco Trincare Cantastorie, e poi anche due o tre ballate d'attualità scritte da me e scritte anche da Tiziana. E questa, quella poesia che va recitato, a pallina, che è, diciamo così, proprio di osservazione della realtà quotidiana, cioè di quello che avviene nel traffico, nella macchina, sono poesie, sono piccole scenette di vita quotidiana che fanno ridere, cioè che diciamo sono di carattere satirico. È un filone che sicuramente è stato il primo filone che già negli anni 50 Franco Trincale ha prodotto, quando ancora non era a Milano, era in Sicilia. I primi dischi di Franco erano delle canzoncine siciliane, cioè che praticamente mettevano in scena fatti della vita quotidiana, e tra l'altro erano molto brevi, duravano due o tre minuti perché cercavano di guadagnare il terreno rispetto ai cantastorie più antichi delle generazioni precedenti, che cantavano storie che duravano addirittura un'ora e mezza, la storia del bandito Giuliano, la storia di Giovanni XXIII. Lui, che è di una generazione successiva, cercava di conquistarsi il pubblico più giovanile, che non aveva il tempo di fermarsi per un'ora e mezza. Quindi io ne ho scelta una che ha a che vedere con Milano, è una forse delle prime canzoni di Franco Trincare degli anni 50, e si chiama L'aria milanisa, ed è la storia di un caso eccezionale in cui a emigrare a Milano dalla Sicilia non è il marito, ma è la moglie che va a Milano e poi ritorna in Sicilia, e questa ballata mette in scena appunto le contraddizioni, cioè tra la Milano moderna e la Sicilia che viceversa ancora veniva considerata arretrata. L'aria milanisa. Franco mi deve dire se la faccio bene oppure no, però, perché io sono emozionato qua molto. La me mugheri partio a Milano e manna sordi di mano a mano, dopo due mesi scrisse in famiglia vos a Milano. Ora so figlia e parte figlia mia, vattene a Milano, vedemo chi tocca fare da sopra. Io la me figlia parte a Milano, c'aveva un anno e bagaglio sano, ci disse a cura andalo viaggiare dalla valigia. Da bonno scassare, stai attenta, vedi che te ne vai a Milano, Marietta, stai attenta. Marietta, teni l'occhio in ta valigetta, ca to madre in talu viaggio, sa scanciao cu don viaggio. Dopo quattro mesi appena, me mugliere parla italiano, Sebastiano, Sebastiano, un meciliano mi chiama così, pulicavo si c'è me figlia che mi chiama babbo, babbo, babbo, babbo, diventavo, non capisci, rende chio. Fu la rovina di la me casa, quando tornavo sta milanissa, vieni strammata, mezza vastasa, mi parla italiano con la lingua tis, picciotti sappe che Marietta ci vo scassare la valigetta. Disse babbo, non ti preoccupare, fa niente, a Milano c'è la modernità, babbo, fa niente, a Milano è normale, sapete perché? Perché? Perché a Milano si usa così, figlia mia. Certamente, non ci vuole la tua mano, qui non siamo in continenti, e lo bagaglio lo volono sano. E ci disse a me mogliere, parti subito e non tornare, a Milano resta e non venire più. Tu bagaglio di tua figlia, ando paesi era sano, a Milano su picchiano, sogno sano su doio. Tu bagaglio di tua figlia, ando paesi era sano, a Milano su scattano, sogno sano su doio. Tu bagaglio di tua figlia, ando paesi era sano, a Milano su picchiano, sogno sano su doio. La scena, c'è quello che difende la verginità, c'è tutta l'allusione, insomma, c'è così, e lei invece c'è la Milano moderna che viceversa rappresentava la rottura delle regole tradizionali, la società più moderna, e quindi gioca praticamente sulla incomprensione. Babbo in Sicilia significa stupido. Un siciliano mai chiamerebbe il proprio padre babbo. Babbo. E quindi lui dice, lei ritorna da Milano, babbo, babbo, ma guarda, babbo, babbo io arrestai. E quindi è molto, ed è di questo filone. Ora viceversa, passo la parola a Tiziana, che ricorda un fatto molto, esatto, molto importante, non solo per Milano ma per la storia italiana in genere. E soprattutto perché quest'anno ricorrono 50 anni dell'occupazione storica di Via Tibaldi del 6 giugno del 71, dove Franco ha fatto proprio da colonna sonora a questo fatto dove è morto anche un bambino. Erano le case del comune che avrebbero dovuto destinare a edilizia popolare e che invece sono state assegnate a edilizia di lusso, e quindi in seguito a questo fatto c'è stata un'occupazione, proprio una sollevazione popolare, e Franco è accorso subito a questa occupazione. E io ho questo ricordo, avevo 18 anni e mi ricordo di questa ballata. Sì. Allora, no, volevo fare una precisazione. Lì le case, c'erano le case tipo oggi come passate qualche quartiere delle cosiddette case minime, cioè delle quinte dove abitava il proletariato. E quindi queste case furono abbattute con la promessa di accomodare quelle che devono uscire da quelle case, e quindi che sarebbero poi ridate a quelle che dovevano sgombrare per fabbricare queste cose, le case nuove. Però questo non accadde, e quindi logicamente nei tempi passarono, e quindi si mobilitò una lotta non solo di quelli che avevano diritto a quella casa, ma una lotta di non solo di quartiere, ma estesa al concetto della casa a chi l'abita. Allora quindi si apre veramente un'occupazione in quelle case, dove io personalmente feci una presenza anche notturna, dormendo lì, e quindi ero un pochettino il menestrello di fare gioia nella lotta, no? Quando però venne il modo che arrivò la polizia per sgombrare, vi fu l'assalto alla polizia, dove in braccio teneva un bambino, una mamma, e quel bambino morì. Allora io sono stato presente a queste cose, e logicamente la prima cosa che ho fatto, si sono riuniti gli occupanti al Politecnico, ho preso la tessera che avevo io del PC allora e l'ho data in mano agli occupanti. Quella tessera è sparita, e la notizia che poi ha dato anche sull'Unità, dove spesso parlava di me, è stata che io ho strappato la tessera. Non è vero, non per difendere la situazione mia di moralità di strappare, non era un disprezzo, era una militante che logicamente veniva richiamato da molto prima a misurarsi con le ballate, non uscire dei limiti. E quindi che cosa si è verificato nella realtà? Una falsità di quella cosa, che mentre la testa non si è vista più, stranamente. Però è nata anche questa ballata che vi canta, di questa dell'occupazione. Quella giusta trionferà, perché il fine è di abolire ogni altra violenza, come quella della polizia al servizio della borghesia. Su avanti o proletari, oggi la casa poi la città, con la lotta unitaria conquistiamo la libertà. Con la lotta unitaria conquistiamo la libertà. Sono nato laggiù in meridione, dove la gente fa colazione con un po' di cipolla e di pane, e certezza non ha nel domani, dove ancora il padrone e il barone, e quando passa gli bacia le mani, dove il divorzio esiste di fatto, dove le mamme si vestono a lutto, dove le mogli sono senza mariti e le baracche hanno i terremotati, dove il meglio aspettando si spera, dove si muore sepolti in miniera. Io sono nato laggiù in meridione, dove la gente semplice e buona, si legge il giornale e la scuola non è obbligatoria, dove a 20 anni si è già sfruttati e da 20 anni in questura arruolati. Io sono nato laggiù in meridione, dove profuma la zagara in fiore, dove il sensale porta l'amore e le ragazze son vergini ancora, dove il treno lascia i villeggianti e fa il carico degli emigranti, dove la barba si fa dal barbiere e il calzolaio fa ancora il mestiere, dove ancora non c'è l'ospedale ma le autostrade ci han fatto passare, dove i giovani vogliono tornare e i vecchi ci vogliono morire. Io sono nato laggiù in meridione, io sono nato laggiù in meridione, io sono nato laggiù, laggiù, laggiù, laggiù in meridione, e voglio fare la rivoluzione. E qui c'è Primo Moroni. Quando feci questa canzone la cantammo anche insieme, per ricordare queste cose vengono alla mente logicamente, che cosa? C'è cosa? Che siamo stati sempre perdenti, purtroppo, questa è la realtà. E allora qui bisogna veramente rilanciare il processo di, io sono convinto che la rivoluzione si può realizzare, ma in un modo oggi è rivoluzionaria quella che sta succedendo. Allora noi dobbiamo riformare, adesso non mi chiamate che vi voglio andare indietro, attraverso una logica anche di corsa virtuale. Oggi la rivoluzione consiste anche lì dentro, anche lì dentro. Invece questa è una ballata che ho composto io nell'aprile di quest'anno su una cosa che si vede tutti i giorni. In Viale Tibaldi c'è la fila per la gente che va a chiedere da mangiare perché non ce la fa ad arrivare a fine mese. E io con i quattro accordi che conosco mi sono sentita di fare questa canzone sull'aria di Bella Ciao. Sempre di questi tempi è stato quando c'è stato l'insediamento di una certa sciura Letizia Moratti alla sanità lombarda, alla regione Lombardia. Allora ho fatto questa cosa qui, sempre sull'aria di una vecchia canzone milanese. A Milano sciura Letizia cominciò a muovere i piedi, era moglie di un quotato petroliere coetane, dal petrolio alla RAI e Sinding de Milan, strapagava i consulenti con il pubblico. Non la voglia anche in regione a andata a Lupi Banca, pare che una combinata un'altra disenfaseva il contrabbando col petrolio dell'Iraq, ma dall'antiriciclaggio le partì un saltafors. Gli inquirenti ora indagano se che c'entra un quei cor. Letizia Moratti non la voglia anche in regione a comanda, a mangia fera tutti da ne che la pela ai contribue sulla pandemia, le la dis vaccini covid in base al PIL, Moderna, Pfizer o AstraZeneca, sempre quei in muletta. E adesso che l'assessore alla sanità un bel curriculum che le laga in tanti dise nelle proprie vera, che poteri avesse pesce del galera. Letizia Moratti non la voglia anche in regione Cantastorie, Franco Trincale in particolare, cioè, ragionano sulle cose, invitano a ragionare sulle contraddizioni della storia. Lui ha fatto una, c'è anche nel libro, Madri a 60 anni, quando questa donna che ha voluto un figlio a 60 anni è stata attaccata da tutti perché praticamente non è possibile avere un figlio a 60 anni, anche se quella donna l'ha avuto perfettamente ed era felicissima di averla avuto, tant'è che questo figlio è cresciuto e sono tutti felici e contenti. Se c'è una cosa rispetto ai quali i cantastorie storicamente invece non ragionano, proprio si oppongono nettamente, è quando si trovano di fronte a un pensiero unico, a un pensiero ortodosso. E pensate alle lotte contro la mafia dei cantastori. Lui stesso ha fatto Mafia e Libertà, Ciccio Busacca e Ignazio Buttita ha rischiato, hanno avuto le case bruciate proprio per avere fatto battaglie fortissime contro la mafia, contro anche il clero. C'è un anticlericalismo proprio dei cantastori e un antimilitarismo, cioè le battaglie, le ballate di Franco contro la guerra, da quella Nixon Boia che citavo prima a banane e Coca-Cola, missili nel culo, cioè che una volta fa. Allora ve ne faccio una che è proprio sui militari, che si aggancia poi a una ballata che ha fatto lei e di cui vi parlerà Tiziana. Questa è una ballata di qualche Mafia e Parrini, si dettero la mano, Mafia e Parrini. La mafia e i Parrini si dettero la mano, povero cittadino, povero paesano, Mafia e Parrini la mano. Uno isa la croce, l'avocio punta e spara, uno ammenazza inferno, l'avocio la lupara. Chi semo surdi o muti, rompemo sti catini, Sicilia vuole gloria. Non solo Rosa Baristeri, questo è il testo di Buttita, ma sentite quest'altra, la accenno soltanto. La mafia ammazza chi ci pare e piace, la mafia c'ha potere capitale, la mafia è l'industria più attiva, che storci soldi e li sa riciclare. La mafia è tutta gente del rispetto. La mafia non è più coppola storta. La mafia cammina in doppio petto. La mafia c'ha le chiavi di ogni porta. La mafia è quella, cari signori, sta nel silenzio in cambio del favore. La mafia non perde mai la corsa. La mafia gli è quotata pure in borsa. La mafia c'ha cervelli e intelligenza. La mafia si compra le coscienze. La mafia è incarnata nello Stato, dove l'onesto viene assassinato. La mafia sta dentro gli apparati, coi loro insospettabili piazzati. La mafia è dentro quel palazzo là. Franco, la vuoi cantare tu? No, qua c'è, stavo cercando che c'è la lettera della sorella di Falcone. Quando mi va. Ora la leggi. La mafia è dentro quel palazzo là, dove è scritto giustizia ci sta. Ora a Palermo il 23 di maggio è stato assassinato il giudice Coraggio. Quella strage immane, la sua consorta, la ballata di Falcone. La mafia è dentro quel palazzo là, tutte e due di Franco, mafia e giustizia, e la ballata su Falcone. E stava trovando la lettera di Maria Falcone che gli ha mandato. Sì, ce l'hai tutto? No, non ce l'ho qua. Vabbè, lo posso cercare. Allora riprendiamo il filo. Sì. Questa scritta da Franco, di quando, il generale di quand'è? E io ho cercato, sentendo questa ballata tipo 20-30 anni fa, e conoscendo qualcuno nel mondo del giornalismo, ho cercato di fare un'inchiesta per sapere un dato preciso. Quanti sono, non voglio sapere, quanti sono gli impiegati nell'esercito, diciamo nelle armi, in Italia? Solo un numero voglio sapere. Siccome è la spesa che costa di più, quella degli armamenti e quella del militare in Italia, volevo quantificare quanti sono proprio numericamente gli alti incarichi di generali, colonnelli. Non c'è stato verso, anche in questa società fatta di numeri, di statistiche. Vediamo per il coronavirus questi numeri come sono belli precisi e quadrano sempre. Anche quelli dei militari quadrano sempre, cioè nel senso che non quadrano mai. Su questo fatto Trincale ha fatto questa ballata, i generali, che si lega a una canzone di Tiziana che vi canterà subito dopo. I generali. Un, due, tre, quattro. Il mio paese, chiamato Valia, ha allattato tanti bei generali. Più come son belli sti generali, con i cordon tutti d'orra. Un, due, tre, quattro. Il mio paese, chiamato Valia, ha allattato tanti bei generali. Come son belli sti generali, con i cordon tutti d'orra. Eccoci sono i colonnelli, come son belli, belli, belli, sti colonnelli, come son belli, sti colonnelli, con i cordon, tutti d'orra. Un, due, tre, quattro, e poi ci abbiamo i capitani, come son belli, sti capitani, come son belli, come son belli, con i cordon, tutti d'orra. Al mio paese, chiamato Balia, di ufficiali quanti ce n'è? Quanti sono questi ufficiali? Tanti e tanti, credi a me, ora il conto io ti faccio e vediamo quanti ce n'è. questo è il conto che ha fatto Trincare diversi anni fa, ora magari saranno aumentati sicuramente, comunque allora erano generali 2883, colonnelli 10923, capitani 4807, poi tenenti, tenentini, tenentoni, tenentelli, che sto bello me signor. Ah, dimenticavo i maggiori e dimenticavo anche i capitani, l'abbiamo detto, insomma, grosso modo ci sono 30.000 e passa di ufficiali. Al mio paese una grande balia con dei milioni di disoccupati. Al mio paese però non si sta male, perché allattiamo tanti belli ufficiali. Al mio paese una grande balia che allatta tanti bei generali. Come son belli, come son belli, con i cordon tutti d'ora, con i cordon tutti d'ora, con i cordon tutti d'ora. Il generale Figliuolo. Il general Figliuolo mette in mostra le medaglie. Per ora non si sa se vince le battaglie, e i partiti tutti l'han voluto decorare primo militare a gestire la sanità. Appesa alla sua giacca, dice il servil corriere, circa mezzo metro di meriti e imprese. Tra le decorazioni sul petto appuntate ce n'è una che spicca tra le tante sbandierate. Si ricorda con la croce che è stato in prima fila mantenere l'ordine pubblico di polizia, ufficial commendatore e anche cavaliere della Gran Croce pure, il nobile alfiere, croce d'oro e d'argento per Kosovo e Albania, e anche quella al merito per Bosnia e Erzegovina. Informazione serva a giornali e televisioni, plaudono al generale dai tanti medaglioni. Era presto insignito con il grande cordone e tutti gli attributi esporre a profusione. La cosa brutta, sai, che dovrebbe far pensare è la salute pubblica gestita da un militare. E noi pecoroni lo dobbiamo sopportare, primo militare a comandar la sanità. E noi pecoroni lo dobbiamo sopportare, primo militare a comandar la sanità. Coronavirus, noi cantastorie abbiamo prodotto una marea, solo che non le conosce nessuno purtroppo, perché non le fanno conoscere, ma c'è stata una produzione enorme di storie, di ballate, tutte incentrate su questo dramma, i vari aspetti tragici, certe volte anche comici. Ora vi canterò una storia che ha del tragico e anche del comico, questa l'ho scritta io, si chiamano Stornelli Covid Free, e ora scoprirete perché si chiamano Stornelli Covid. Ma tanta è stata la produzione di poesie, io e Trincare ne abbiamo scritto una che si chiamava Sincorona la Cina, poi ho fatto Orazione contro il coronavirus, al punto tale che Claudio e Tiziana, che hanno questa bella rivista per tutti noi cantastorie, che è una rivista che eredita in qualche modo la grande rivista dell'AICA, il Cantastorie, che si chiama Il Cantastorie Online, hanno dedicato un'intera sezione a la letteratura poetico-musicale, alle storie, alle ballate che Cantastorie, dalla Lombardia fino alla Sicilia, hanno dedicato ai temi del coronavirus. E la stessa cosa Ivan, cioè, ha fatto una cosa bellissima, un sito che si chiama pandemicon.org, in cui per tutti gli anni della pandemia, in tutti questi anni, noi abbiamo pubblicato disegni, poesie, musiche, canzoni, anche discorsi. Addirittura Franco faceva dei discorsi, quello che pensava su alcuni aspetti del coronavirus, li registrava, li mandava a Ivan che li ha messo. Ancora penso che ci sia questo sito e chi di voi si può benissimo collegare e ha una visione proprio a 360 gradi. Allora, io c'è un mio amico che ha una moglie che da quando si sveglia la mattina all'alba fino a quando se ne vanno a letto ci parla: l'hai fatto il vaccino, ma perché non vai a fare il vaccino, ma ti sei messa la mascherina, ma perché, ma attenzione, ti devi mettere la mascherina, ma l'hai fatto il tampone, dalla mattina fino alla sera. Allora, su questo fatto, diciamo così, che uno capisce il dramma, ma capisce anche il dramma mediatico, perché qua si parla dalla mattina fino alla sera, ma voi ci avete pensato le conseguenze mediatiche? Il bombardamento continuo da due anni, che uno capisce la tragedia, ma spesso questo bombardamento è anche fine a se stesso, perché tanto comunque non si capisce niente. Non è che se tu vedi 10 giorni di talk show, di Piazza Pulita, di come si chiama, tu riesci a capire qualche cosa. Non si capisce niente, tutto è il contrario di tutto, ed è un bombardamento però in qualche modo che ha le sue regole. Insomma, io ho scritto questa Stornelli Covid Free, che la potete anche sentire sul mio sito geracicantastorie.com, per raccontare la storia di questo qua, che viene appunto così perseguitato, oltre che dalla moglie, appunto dalla discorsualità, dai discorsi del coronavirus, e alla fine, prima di andare a letto, ci compare anche Gesù Cristo, e sentite poi come finisce. La faccio proprio per legarmi a questo tema. Anche questa di Tiziana ha come oggetto, come argomento, il generale Figliuolo del coronavirus. È in siciliano, ma un siciliano comprensibile. Giorno usuri alumatino, già me mogliere parra di vaccino. Ma che dobbiamo fare? Prima che aggiorna il sole, già mia moglie e fa il vaccino, e fa il vaccino, e fa il vaccino. La frene poi ti passa, non ti fa male un braccio, basta che ti sta muta mi lo faccio. Lula che lo caffè, mentre fa colazioni, a mia mi manna a fare lo tamponi. E se ti poi lava su, diventa tisa, mi dici bestia, c'è la variante in grisa. Si torno di la spisa, carico come un muro, mi dici lava di mano e puro coro. E dopo di mangiare, pitta si spaparanza e a mia mi lascia gittanta la stanza. Curo di li comando, di la televisione, idea regina da zona arancioni. Segui li conteggi, flussi metro a ruito, più mali di cui orno ca fui zito. Passamo li serati, canciano li canali, tra medici di orologi e spedali. E quando mi va a curco, mi dice a voci fina, ciccio, tu ronfi, ma e fammi la cortesia, e lassati la mascherina. Prima che mi addormiscio, mi picchio lo calmanti, poi in sonno, lo signori, si fa avanti. Ognuno sopra le spalle mi dissiavi una croce, è inutile ti preghi, tu puoi stutare a luce, Luca. Covid ti lo levo, non fare più preghieri, ma di la lassuca. La tua moglie. Che è peggio, il Covid o quanto si parla del Covid? Io non lo so, ho un dubbio. Che è peggio, il Covid o il lo straparlio, lo straparlare delle... E allora, Franco, ora dobbiamo cantare assieme, perché io ho messo, abbiamo messo come ultimo, poi se ne possono cantare quante ne vogliamo, fino a domani, fino a... Fammi un accordo su questa canzone qua, il terrestre, la minore, sono a faccia parlare. Sono un terrestre, abitante nella terra falda, mangio in abbondanza, tengo una bella panza, c'ho il colesterolo, trigliceridi, il diabete, la spesa faccio in rete, mangio scatolate, surgenici, transgenici, insaccati, pesci d'ogni razza, carne di mucca pazza, sono un non violento, per nulla mi spavento, faccio con devozione la mia buona azione, per i bimbi che hanno fame, nell'altro reame, sono un terrestre che vive di bassezza nel mondo dell'agiatezza, producendo immondezza. Che con gran certezza sa che sta schifezza al fin ci ucciderà. Ci ucciderà. Mi odio e odio i ricchi paperoni di casa nostra e fuori, i Billy Gates, i Virgin, quelli dell'ultima ora, quelli che finanziano la ribellione sonora, quelli dei palchi in piazza che cantano l'altra razza. Vai, vai, vai. I moderni Garibaldi, pieni di miliardi, quelli del profitto uguale al delitto, quelli della ricchezza, la ricchezza finanziaria che fa morire di fame la gente proletaria e a noi ci danno la morte agiata dalla grande abbuffata. Sono un terrestre, abitante qua, nel mondo benestante che porta le mutande in 50 metri quadri. C'ho tre televisori, in cucina, in soggiorno, a letto, persino in gabinetto, segreteria parlante, computer, stampante, sveglietta luminosa, videoregistratore, elettromassaggiatore, bidone bianco, verde, grigio, trasparente, umido in canna, non ci capisco niente, riciclo immondezza, produco ancora schifezza. C'ho il colesterolo, trigliceridi, il diabete, fegato marcito, ma sono fortunato, appartengo al mondo ricco. Così mi han detto, sei fortunato, fortunato e ben protetto dall'America imperiale con lo scudo spaziale. Ma se faccio la somma, pagato a mente fredda, mi accorgo che al fine io vivo nella merda. La tecnologia, questa è la rivoluzione. Questa è una poesia bellissima, musicata da Rossesto Franco, bellissima. Io non mi arrenderò finché ci sono degli staffettisti, sì, che hanno preso la bacchetta. Esatto. Te la esatto, passo. Esatto. Finiamo con questa qua, bellissima. No, anche perché io la vogliamo questa, dove la tiro? No, continuate, ho prenduto. No, è un minuto, questa qua e basta, è finita. La dobbiamo fare tutta assieme, facciamola tutta assieme, tutti a voi, si può cantare tutti assieme, perché c'è un ritornello talmente bello e lirico che la possiamo cantare. Le stagioni. C'è nel libro ed è sulla vita che passa, che somiglia a una ruota, sul tempo, sulla gioventù che tramonta, ma che uno comunque deve combattere fino alla fine. Insomma, è bellissima, sentite le parole. Così, la penna dov'è? La penna. Così, la maggiore. Sol. Tu falla tu, io devo morire. Thank you. Passa l'estate, non c'è l'autunno, viene l'inverno, non c'è primavera, torna l'estate, continua a girare la ruota della vita che se ne va. Questa è per rimanere, noi dobbiamo, ora quando finisce questo coronavirus, sempre, per sempre, a settembre facciamo la presentazione come, che deve durare 2-3 ore almeno. Quindi. Io l'ultima cosa veramente fatta con gente tanta è quando danno i premi. Mi sono trovato un teatro pieno, ma non so quante migliaia, migliaia, mi hanno dato il premio della sicilianità che è il del siciliano trapiantato a Milano. Quindi, roba un po' mezza mafiosa, capisci? Tutti quelli della... capisci? Allora c'era un grande pubblico, mi hanno fatto la cornice. Come se Trincale dato... fosse siciliano, ma non è siciliano, è dell'universo. È dell'universo, ha cantato in America. Che facciamo? Che poi ne facciamo una? Dammi un testo mio. No, aspetta, ne facciamo una. Mi sembra che sto svegliando. No? Una forte di quelle lì, no, dolce. No, arrivederci oppure no una di quelle forte No, ma fammi vedere. Ma che forte. Che teste c'è? No, che teste c'è? Io ho l'ultimo eroe, poi ho la ballata di Lupara. La ballata di Lupara, Valerioti. No, la ballata di Lupara. Madre Coraggio. Dammi la ballata di Lupara. Ah no, buon inverso faccio. Valerioti. A pezzare un manifesto. Nelle strade, non hai questo dente, ce l'hai. La sa per voi. Ce l'hai? No, la sa per voi. Nelle strade di Carini. Che ci vuole l'operai alla Fiat di Montecatini a pezzare un manifesto nelle strade a Misilmeri che lo Stato ha di bisogno polizia e carabinieri. Turiddu Giovanni, prepara gli panni, valigie e cartoni all'unordis va. Portero le picciotte e restarono i vigliaretti, nelle strade ci sono soli, picciriti, scecchi e muli. Turiddu partiva rollato dalle carabiniere che le sorte per lo viaggio somatici le dese. A pensione dello mese la bocca se le vuole sorte. Poi Turiddu aveva la pena. E i sordi di per viaggio somatruzza ce le desi. La pensione di lo mese pane di bocca si levò. Turiddu ora è nei carabiniere. A prima licenza che c'ha aveva l'orgoglio dei somaci che ci ha mandato già la busta che di sotto sua mamma si era levata. Ora Turiddu arriva alla stazione, somaci con la vicina aspetta di vedere a suo figlio, si apre lo sportello, appare sto carabiniere, guardate che faccio, mio figlio Turiddu, un berretto a divisa, più bello lo fa, ma chi non ha le note buone, non è stata in libatezza. Per la fame saziare, se n'aggiri a rubare. Che sto fanno le picciotte? Ma chi non trova un posto di lavoro? Come paese per campare. L'odio carabinieri, differenza non ce n'è. Io lo sapevo che poi Franco si sbloccava, potremmo andare avanti tutta la sera ad ascoltare le sue canzoni. Era fortunatamente già la quarta o la quinta volta, dice che è l'ultima, però ci siamo sempre. Per cui dobbiamo chiudere per stare nei tempi perché devono. Ora in estate c'è caldo ad agosto, ma a settembre col fresco. Chiediamo se c'è la disponibilità, faremo un'altra presentazione. Io ringrazio prima di tutto Franco, ringrazio Mauro, Tiziana, Ivan e poi chiaramente il Cox 18, la Libreria Calusca. Spero che sia stato un incontro piacevole e niente, se qualcuno è interessato al libro, adesso faccio la pubblicità, è qua a un prezzo e poi può anche essere firmato dall'autore, quindi anzi vale di più. Niente, vi ringrazio e niente, buona serata a tutti.